La versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi e 30 secondi e vi ringrazio come sempre per l'ascolto in diretta in podcast Oscar Giannino qui alla versione di Oscar. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, radio24.it. E oggi è una puntata un po' particolare della serie appunto Italia non per giovani, però oltre a uno e non due testimoni di coloro che ci hanno scritto, scriveteci ancora se volete partecipare, poi a un certo punto ovviamente chiudiamo perché il tema lo teniamo aperto ormai da 3 mesi. Però per metà arriviamo all'ospite, testimone, ascoltatore che ci racconta la sua storia, ma per metà, piccola ogni tanto conferma del fatto che non agitiamo temi che non esistono, all'inizio, nella prima metà della trasmissione, parliamo di un rapporto che purtroppo ha portato nuova evidenza e per fortuna oggi i media un po' se ne sono occupati, un rapporto presentato ieri alla LUIS dalla Fondazione Visentini. A me è molto cara poi oltretutto la Fondazione Visentini, perché Bruno Visentini è stato uno dei due personaggi insieme a Ugo La Malfa che sono stati il riferimento della mia gioventù e poi di scelta che ho fatto per molti anni dopo, fino al 1994, e dello studio di Bruno Visentini, quindi io che avevo, grazie a una fortuna insperata nella mia vita, ero stato accolto nella sua amicizia e stima, ho imparato un'infinità di cose sui bilanci delle imprese, su Mediobanca, e così che ho anche conosciuto Enrico Cuccia e così via. Per me resta un punto di riferimento assoluto del valore delle classi dirigenti dell'Italia di un tempo, lo dico quasi commuovendomi e con un abbraccio ancora ai suoi figli e a chi continua il suo lavoro nella Fondazione Bruno Visentini. Bruno Visentini era un antifascista, era un uomo di cultura, ha guidato la Fondazione Cini a livelli di eccellenza europei e mondiali. Ieri ha presentato un rapporto alla LUIS e questo rapporto è proprio sull'Italia non per giovani, cioè ciò di cui ci occupiamo in tutte queste puntate con le vostre testimonianze. E ha prodotto qualche risultato e una proposta. Io vi sintetizzo qua perché poi abbiamo un ospite a cui abbiamo chiesto di commentarci da parte sua del rapporto presentato ieri. La cosa che ha fatto scrivere molto i giornali è questo dato che ieri è stato illustrato nel rapporto, cioè che nel 2004 un giovane di 20 anni in Italia ci metteva circa 10 anni per avere l'autonomia economica e quindi ci arrivava a 30 anni più o meno, e nel 2020 invece ce ne metterà 18 e nel 2030 ce ne metterà 28, quindi nel 2030 arriverà a limitare dei 50 anni se le cose continuano così nel nostro paese per poter contare su una autonomia economica. E ovviamente questa fotografia proiettata nel tempo, naturalmente nella speranza che così non sia anche nel futuro, però fotografa quello che è avvenuto negli anni recenti alle nostre spalle. Io ve lo ricordo sempre, abbiamo il rapporto sulla distribuzione dei patrimoni, non del reddito ma dei patrimoni tra generazioni, che viene fatta dalla Banca d'Italia, quella relativa ai dati del 2015, ci dice che è fatto pari a 100 il livello patrimoniale delle famiglie con un capofamiglia over 65 nel 2015, quindi in 20 anni era passato da 100 a 140, e quello invece degli under 35 era sceso a 40 da 100, quindi questo apre una forbice terrificante. Stiamo parlando dei patrimoni, per fotografare non tanto che gli over 65 sono diventati ricchissimi in Italia, perché ovviamente non è così, ma che rispetto alla mediana, che è molto scesa in questi anni di crisi per effetto della crisi, della perdita di 6 punti di PIL, di una perdita di un reddito pro capite purtroppo ancora più elevato, chi ha tenuto meglio rispetto alla mediana sono state le corti anagrafiche più anziane. Chi invece tragicamente non ha tenuto per niente sono esattamente i giovani, e sono gli stessi risultati che per corti vediamo negli occupati degli ultimi 2 anni, quelli con la decontribuzione del Jobs Act. Over 50 c'è l'effetto concentrato dell'occupazione aggiuntiva, sotto o si tiene a malapena o si perde addirittura, come capita per le corti più giovani. E da questo nel rapporto si arrivavano poi, oltre al calcolo dei net, cioè dei giovani che non studiano e non cercano lavoro, diciamo così, gli sfiduciati che sono scesi un po' rispetto al 2014, per fortuna, in cui erano arrivati a 2 milioni e 400 mila, ma restano comunque 2 milioni e 200 mila. Il rapporto poi arrivava a delle proposte, cioè a una proposta di ordine generale che è quella di meccanismi di tassazione con una rimodulazione dell'imposizione per maturità fiscale, cioè per anzianità, per così dire, contributiva, e poi un fondo strutturale per l'equilibrio intergenerazionale tra coorti più avanti con gli anni e meno avanti con gli anni. Io scrivo da anni a proposito della prima proposta, ma ci tengo ogni volta a sottolineare, non è a mio modestissimo giudizio, ma insieme a quello di alcuni tributaristi liberali che spesso invito in trasmissione, come il professor Dario Stevanato, Andrea Giovanardi e così via, non è applicabile all'IRPEF la diversificazione per età del contribuente. Cosa diversa è per invece le aliquote contributive. Le aliquote contributive, quindi, a fronte poi della maturazione con, per i giovani, quelli post riforma Dini, tutti nel contributivo, ma in un sistema a ripartizione come resta il nostro, si può immaginare sui contributi un incentivo all'occupabilità che derivi dal fatto che chi è indietro nell'anzianità contributiva, quindi non ha lavorato se non tardi o ha forti periodi di interruzione nel versamento contributivo, cioè nel lavoro legale, in quel caso si paga un'aliquota all'inizio più bassa dei contributi, che poi si equilibra nell'arco vitale, quindi dal punto di vista attuariale nel complesso si paga la stessa somma, ma contribuendo meno coi propri contributi al pagamento a ripartizione di chi invece ha ancora pensioni retributive. Io la penso così, secondo me non si può applicare all'IRPEF, ma resta che questo rapporto ci ha messo delle cifre di fronte molto importanti. Sulla Stampa oggi ne ha parlato e le ha commentate in un modo che a me è piaciuto molto l'ospite che ho chiamato in questa prima parte della trasmissione, cioè Linda Laura Sabadini. Linda Laura Sabadini è una statistica molto apprezzata da chi segue negli anni, facendo il mio mestiere, l'evoluzione nel tempo della qualità dell'offerta dei dati statistici nazionali dell'Istat, e l'abbraccio anche per quello che le è successo, per così dire, anche se non ne voglio riparlare oggi. È un editorialista della Stampa e oggi è proprio intervenuta su questo punto. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Linda Laura Sabadini. Grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere. Allora, lei oggi ha... parla di queste proposte finali con un taglio che secondo me è, almeno a me è piaciuto molto, però siccome non è detto che i nostri ascoltatori leggano la Stampa se non sono a Torino, allora che cos'è che la colpisce e che cosa non la convince invece delle proposte avanzate ieri dalla Fondazione Visentini per affrontare il problema dell'equità tra generazioni? Allora, la cosa che mi è piaciuta è appunto questa capacità di rifocalizzare l'attenzione su un problema serissimo che noi abbiamo, no? Che è questo dell'aumento delle disuguaglianze intergenerazionali. Non ho avuto il tempo fisico ovviamente per studiare a fondo anche come metodologicamente è stato trattato, ma lo farò perché è di grande interesse il rapporto che è stato fatto. E la cosa che la prima riflessione che mi è venuta è che veramente la riflessione noi la dobbiamo portare avanti non in termini di conflitto intergenerazionale, esatto, quanto in termini di differenze intergenerazionali che sono crescenti nel nostro paese. E anche lei lo sottolinea, perché io questo l'ho sperimentato in questi anni parlando di questo tema con i miei ascoltatori, anche essendo molto attenti a dire che non è che i 65 anni sono diventati paperoni nel nostro esatto, paese. Esatto, questo è importantissimo, questa cosa qua, perché l'avete detto benissimo prima. Secondo me in questa crisi ha vinto chi non ha perso, tra virgolette, o chi ha perso meno. Allora, che cosa è successo poi sostanzialmente? Che in realtà gli anziani hanno mantenuto, diciamo così, le loro posizioni, e invece abbiamo avuto addirittura i minori più ancora che i giovani, e i giovani che hanno perso, e hanno perso molto, e anche la fascia adulta che ha perso. Questo è un problema serio che abbiamo, no? Ma questo significa pure che non è che c'è qualcuno che in questa crisi si è avvantaggiato e si è arricchito a discapito dei giovani, cioè questo deve essere chiaro. Poi ovviamente stiamo parlando di grandi numeri, non è che abbiamo un segmento, la popolazione anziana, che ha cresciuto il suo reddito e conseguentemente ha preso risorse da chi invece non è così, perché la popolazione anziana non si è arricchita, però ha retto meglio. E in questa crisi è un po' tutto così, perché se vediamo per esempio anche nel mercato del lavoro, tra uomini e donne, che è successo? Le disuguaglianze di genere sono diminuite, ma sono diminuite perché gli uomini sono fortemente peggiorati, non perché le donne chissà che cosa hanno ottenuto. Abbiamo ottenuto 10 punti in più di partecipazione al mercato del lavoro, esattamente. Sì, e quindi questo è il problema. Allora, quindi la cosa fondamentale è che noi abbiamo avuto un peggioramento nettissimo della situazione giovanile con una tenuta degli anziani. Attenzione, aggiungerei in più una cosa, che gli anziani sono stati una grande risorsa. Se non avessimo il loro patrimonio dietro, l'unità di integrazione dei redditi, cioè la famiglia, andrebbe a... Perfetto, cioè le grandi risorse di solidarietà intergenerazionale che ci sono nel nostro paese, lo dobbiamo dire, sono state uno degli ammortizzatori sociali fondamentali di questa crisi. Noi avremmo avuto molta più povertà se non ci fossero stati questi. Gli anziani sono stati quelli che sono stati il punto d'appoggio delle famiglie dove si è perso il capo famiglia. Il capo famiglia magari ha perso il posto di lavoro nel sud, ma non solo nel sud, cioè l'elemento dell'anziano che ha retto un po' di più, che però attenzione, ha retto un po' di più, vuol dire, come abbiamo detto, che i redditi sono sostanzialmente quelli. La povertà assoluta è rimasta sostanzialmente quella, è la povertà assoluta dei giovani che è triplicata, è la povertà assoluta dei minori che è triplicata da prima della crisi a adesso. Quindi la situazione è proprio questa, in questa crisi ha vinto chi non ha perso. Quindi non c'è discorso di conflitto intergenerazionale che tiene, io non vorrei più sentirla questa cosa, perché se per noi è una risorsa la solidarietà intergenerazionale che c'è nel nostro paese, deve essere una risorsa, una strategia integrata sul piano della battaglia contro la disuguaglianza, che tenga conto non solo delle disuguaglianze intergenerazionali, ma di tutti gli altri tipi di disuguaglianze che abbiamo, perché ce l'abbiamo territoriale, ce l'abbiamo sociale, si combinano una con l'altra e si sovrappongono. E qua il problema è che non è uno contro l'altro, abbiamo bisogno di una politica di coesione sociale complessiva. Allora, una di quelle proposte che si facevano può andare benissimo, tipo quella, no, che veniva detta del fondo di solidarietà tenendo conto dei 2 milioni, no, di pensionati con pensioni più elevate, ovviamente con l'accortezza di trovare il modo di riconoscere i versamenti, cioè di tenere separate le situazioni di chi si è versato tutti i contributi, chi non si è versato, insomma, queste sono cose che poi si possono studiare, no? No, però voglio dire, l'operazione porte aperte per ogni fondo dell'INPS condotta in questi anni ci dà un'indicazione di dove sì e dove no. E che possono essere prese, però di una cosa dobbiamo essere coscienti, cioè non è che questo è la cosa che ci può salvare, questo può essere uno degli strumenti da mettere in atto. Anche perché così non si recupera la quantità di risorse da immaginare. Perché così non si recupera ovviamente questa quantità di risorse bisogna trovarla, e bisogna trovarla in tanti modi, e qua entra in gioco pure l'Europa, cioè tanti discorsi che si sono fatti, cioè... Allora, questo accenno che lei fa, per esempio, cioè per i paesi in cui gli indicatori inoppugnabili di ingiustizia generazionale, ieri c'era un indicatore proprio in questo rapporto, se solo la Grecia peggio di noi, non potrebbero diventare un argomento della politica di coesione europea per una disciplina aggiuntiva finalizzata proprio al recupero di questo gap nell'attribuzione delle risorse europee? Non sto parlando di stravolgere i patti di stabilità sul deficit e sul debito, sto parlando però di un indicatore oggettivo delle politiche di coesione rispetto ai fondi. Cioè, l'Europa non ha più alternative rispetto a questo, sta vivendo una crisi da un punto di vista politico enorme, che è dovuta all'incapacità che ha avuto di affrontare il problema della disuguaglianza crescente all'interno dei suoi confini, perché il problema non è stato solo un problema per l'Italia, un problema per la Grecia e per la Spagna, cioè la questione dell'Inghilterra, di UK insegna, cioè, questa è una delle spiegazioni vere del voto della Brexit, è una delle spiegazioni vere, secondo me non c'è alcun dubbio, così come è una delle spiegazioni pure della vittoria di Trump, no, cioè, non c'è dubbio, il problema delle disuguaglianze, ma anche in Irlanda, se uno va a vedere la distribuzione dei redditi, c'è stata una forbice che si è aperta, a fronte del fatto che l'Irlanda recupera benissimo il PIL, cresce tantissimo, non ha cambiato le tasse, però se uno va a vedere come è cambiato il Gini dei redditi, c'è una fisarmonica. Però allora, il problema vero che abbiamo è che o si riesce a rimettere al centro la capacità dell'Europa di dare risposte su questo terreno e quindi di non agire più con la logica, diciamo, che ha animato più la Merkel, l'ottica di austerità, eccetera, oppure secondo me non se ne esce. Allora, non se ne esce perché la gente cerca giustamente nuove alternative, ma poi, pensando dire, di trovarle in chi sottolinea che è meglio uscire dall'Europa. Sì, meglio uscire, nazioni, dazi, eccetera, eccetera. Io non ci credo, ma sono d'accordo con lei che l'Europa non è riuscita a rendersi concreta agli occhi, al portafoglio, al cuore della gente, a tutte queste tre cose. In modo avrebbe bisogno di un bagno di rinnovamento profondissimo, con proposte, cioè, solide, serie, ampie, che puntino realmente sulla coesione, non solo a parole, perché adesso poi il problema che io ponevo è che qui per fare non è una cosa facile, dopo una crisi come questa, no, per niente, riuscire ad adottare una politica che soddisfi, perché io dico è fondamentale una politica a lungo termine, però è chiaro che abbiamo anche la necessità di politiche a breve, perché quando tu hai i livelli di povertà che abbiamo raggiunto, tu hai bisogno di rispondere a queste emergenze. Sì, non puoi dire alla gente tu torni a recuperare forse il tuo reddito tra 20 anni, perché nel frattempo questo non si può. E questo è anche un problema politico, perché significa dover armonizzare nel breve le pulsioni della politica, che sono a breve perché sono i cicli elettorali, rispetto a scelte invece di lungo periodo, perché questa questione tra generazioni è una questione di medio lungo e di sostenibilità dei conti, non solo del welfare, ma è di componente di lavoro, quindi capitale umano per la produttività e così via. Io ringrazio comunque Linda Laura Sabbadini, perché ci ha dato un punto di vista, secondo me, trasversale di come questa questione è una delle nuove priorità. Io credo che questo indicatore andrebbe rimesso al centro anche degli indicatori per la coesione, per i fondi europei attuali. Poi il fiscal compact, la rigore, l'austerità è un altro capitolo, ma questa per l'Italia, e non solo per l'Italia, può essere, secondo me, una concretissima proposta da avanzare al tavolo europeo. Grazie a Linda Laura Sabbadini. Dopo il traffico torniamo con il nostro secondo ospite, che ci chiamerà da Londra, Fabrizio Fantini. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta, e dopo aver parlato di questo rapporto ieri presentato alla Fondazione Visentini, esattamente sui dati più eclatanti dell'ingiustizia tra generazioni in Italia, anche con le proposte avanzate in questo rapporto, l'abbiamo commentato con Linda Laura Sabbatini, che è una statistica e che ne ha scritto sulla Stampa di oggi, uno dei nostri ascoltatori che invece si è proposto appunto per la serie dell'Italia non per giovani è un imprenditore, Fabrizio Fantini, che ha una società a Londra, è così Fabrizio? Sì, corretto, assolutamente. Buon pomeriggio intanto e grazie di averci scritto, di essere qui. Ma adesso tu ci stai chiamando dall'Italia o da Londra? In questo momento sono a Londra, ma mi trovo in Italia quasi ogni settimana. Prima, obbligatoriamente, ti devo chiedere, da ieri pomeriggio a stamattina, che aria tira, com'è cambiato, che impressione hai avuto e quella comunità con cui hai a che fare per i fatti di ieri? Ma sai, Londra è una città molto grande, diciamo che chiaramente un evento scioccante a livello emotivo, però praticamente vedo pochi cambiamenti tra le persone, ma nelle discussioni chiaramente purtroppo un tema che capita quasi con chiunque si parli in questo momento al centro delle discussioni. La mia fidanzata stessa era diretta proprio lì alla Casa dei Comuni ieri pomeriggio, chiaramente non c'è andata, quindi è rimasta particolarmente scioccata. Tu sei uno di quelli preoccupati per il Brexit in quanto British born, oppure no? No, perché dopo i 5 anni di vita a Londra comunque si ha diritto a la residenza permanente o comunque si può continuare a lavorare indefinitamente, ma prima o poi mi piacerebbe anche tornare in Italia. Prima o poi, perché tu in realtà, cioè, hai fatto un master ad Harvard, hai lavorato per 10 anni come consulente della McKinsey, ma in Italia, e non solo in Italia, però anche negli Stati Uniti e in Inghilterra, e poi 4 anni fa mi hai scritto, hai avviato appunto questa esperienza imprenditoriale, anche un po' per riavvicinarti all'Italia, no? Assolutamente, Oscar. Io ho fondato Evo Pricing, che è una società originariamente inglese, è nata dal mio progetto di dottorato, proprio volendo affondare le radici storiche, e poi ho puntato su Torino, in effetti, che è la città italiana che secondo me al momento ha la maggiore potenzialità di sviluppo, sia per quanto riguarda le startup in generale, ma anche in particolare sulla parte di analisi di dati. E ma questa Evo come Medioevo, Evo Pricing, che hai fondato, in che attività insiste e che tipo di risorse in Italia seleziona e assume? Sì, quello che fa Evo Pricing è essenzialmente aiutare le aziende italiane, non solo, ad essere più competitive con analisi automatizzate di dati. Cioè, per farti un esempio, noi prendiamo i dati interni dell'azienda e poi li aiutiamo a raccogliere dati. Cioè, quando dici i dati interni non intendi il bilancio, intendi il set di indicatori che si usano dal parte del controller di gestione di un'azienda, cioè quelli che si determinano nel flusso dell'andamento settimana per settimana, mese per mese, giorno per giorno, tutto quello che sono le transazioni, quindi ricavi piuttosto che le voci di costo. Quindi prendiamo proprio il livello più granulare, se vuoi, della vita aziendale a livello di dati, e l'arricchiamo con informazioni esterne che a volte, addirittura in modo interessante, prendiamo non solo da internet, diciamo dai posti ormai ben noti, ma anche dalle persone che lavorano per l'azienda, addirittura anche da commesse dei negozi piuttosto che manager. E tutto naturalmente questo significa che il vostro cliente deve avere una grande fiducia in voi, perché uno dei problemi classici dell'azienda di piccola dimensione, familiare non solo come controllo ma anche, ohimè, spesso, troppo spesso, a gestione manageriale familiare, è quello di non voler dare il pieno accesso a questo set di dati, che invece è importantissimo per avere una interpretazione dinamica ed evolutiva di quello che succede. Ma guarda, ti dirò una cosa ancora più interessante secondo me, cioè un approccio più che di fiducia e di condivisione dei dati, di cui anzi spesso vedo che le aziende non comprendono il potenziale appieno, ma c'è un approccio al modo di prendere le decisioni. Cioè, esatto. Oggi si scontra un po' un gap tra i dati e gli strumenti che sono disponibili. Ma tu il capitale, te e i tuoi soci per avviare Evo Pricing all'inizio, dove l'hai trovato? Il capitale è nato dal mio lavoro precedente, che in quanto consulente mi ha consentito di mettere un po' di... In Italia sarebbe stato altrettanto possibile secondo te oppure no? Assolutamente sì. Ah, assolutamente sì, non assolutamente sì. No. E poi è anche l'impostazione dell'azienda. Io ho impostato l'azienda per lavorare e finanziarmi grazie allo sviluppo dell'azienda stessa, che è un concetto molto diverso da come si fa startup negli Stati Uniti. Quindi esattamente. Infatti, ma perché assumi figure professionali in particolare italiane? Perché sei convinto, vista l'esperienza comparata che hai fatto come consulente di impresa, che i percorsi accademici italiani siano ricchi e formativi rispetto agli altri? Guarda, a mio avviso in Italia abbiamo tante cose, Torino in particolare, che è una città per me di adozione, ma è una città dove troviamo eccellenza scientifica, 2 università fantastiche, talenti, giovani che hanno veramente voglia di lavorare, stabilità, perché c'è meno dinamismo nel mercato del lavoro, che per un'azienda ovviamente è un fattore positivo, un ecosistema giovane che cerca nuove idee, nuove opportunità e anche dei costi competitivi. Allora, ultima domanda, che consiglio ai nostri giovani per orientarsi? Che tipo di corsi, lauree, eccetera, prendere per poter essere potenzialmente assunti da imprese come la tua? Ma io, sono nel comitato di indirizzo di un corso che si chiama Stochastics and Data Science a Torino, che di fatto insegna ai giovani come imparare ad analizzare i dati, e in questo settore c'è piena occupazione. Quindi Stochastic Data Science, scrivetevelo cari genitori per i vostri figli. Io intanto ringrazio e faccio i miei migliori auguri, continua a scrivermi, a dirmi come vai, perché parleremo, ti invito anche per parlare di quello che fate per la parte di interfaccia imprese, caro Fabrizio. E intanto emergono i primi particolari del responsabile dell'attentato dopo la retata di Birmingham, e li troverete domani sui giornali. Non ha precedenti di terrorismo, però aveva precedenti con la giustizia britannica. E come?